GR24, il sole 24 ore. Milano agguata un imprenditore di 75 anni, gambizzato ma non rischia la vita. Marchionne, la Fiat resterà in Italia, intanto però continua la frenata del mercato dell'auto, ad agosto meno 20%. Scandalo PDL in Lazio, la Polverini il giorno dopo conferma, da oggi una svolta nei costi della politica oppure dimissioni. Il presunto ricatto di Dell'Utri a Berlusconi, indagata anche la moglie del senatore, accusata di riciclaggio. Buona giornata ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con questa nuova edizione di GR24. E allora andiamo a capire quali sono i contorni di questa notizia che abbiamo dato alle 12 di un agguato ad un imprenditore milanese che è stato gambizzato alle porte della città. Sentiamo di che cosa si tratta, Raffaella Calandra. L'hanno seguito, affiancato e poi hanno aperto il fuoco. Con 6 colpi di pistola è stato gambizzato questa mattina alle 8 un imprenditore del milanese, Giovanni Biffi, 75 anni, e una ditta che da decenni produce stampi meccanici a Cambiago. Ora però è in liquidazione. Due uomini in scooter, pare, avrebbero aperto il fuoco dopo aver superato un camion. E c'è chi tra i testimoni del viale dell'industria, dove appunto è successo l'agguato questa mattina, riferisce anche di una lite tra il camionista e un altro autista di una macchina, che però è una ricostruzione che al momento viene scartata dagli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. E per primo ad arrivare sul luogo dell'agguato è stato il genero dell'imprenditore vittima, Giuseppe Comi, che abbiamo raggiunto poco fa. È stato lui che mi ha chiamato dicendo semplicemente mi hanno sparato, mi trovo in questo punto, vieni qui. Erano in moto, l'hanno chiamato, gli hanno detto qualcosa prima di aprire il fuoco? Facendo il suo solito percorso, due persone in scooter l'hanno sorpassato, affiancato, così è stata la descrizione dell'autista di un camion che c'era dietro, e quello dietro ha sparato questi 5-6 colpi all'altezza della portiera, a detta dei carabinieri che sono, diciamo, più avvezzi di me, fortunatamente non lo sono a queste cose, ma detto con scopo intimidatorio perché era a metà portiera e secondo loro non era per, diciamo, per uccidere ma solo per gambizzare. Aveva mai avuto minacce suo suocero oppure voi? No, in ditta? Nessuna minaccia dunque, ma all'interno delle difficoltà economiche della società, che come ricordavamo prima ora è in liquidazione, anche se ha garantito la difesa dei posti di lavoro, si cerca ora il possibile movente dell'agguato. Torneremo a parlarne all'interno di Italia in Controluce alle 13.30. Grazie Raffaella, più tardi dunque Italia in Controluce alle 13.30 per capire ancora di più i contorni di questa notizia che naturalmente fa tornare con la preoccupazione al terrorismo e agli anni di piombo. Adesso cambiamo pagina e parliamo ancora una volta di Fiat, perché dopo le polemiche per le frasi di Sergio Marchionne sul ritiro del piano Fabbrica Italia di 2 anni fa, il numero uno di Fiat ha precisato: restiamo in Italia, ma questa non può essere considerata come un'azienda solo italiana. E allora riprendiamo da qua con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, parole chiare, quelle del numero uno del Lingotto. La Fiat non vuole lasciare l'Italia, spiega Marchionne in un'intervista alla Repubblica. In questa situazione drammatica, aggiunge Marchionne, io non ho parlato di esuberi, non ho proposto chiusure di stabilimenti, non ho mai detto che voglio andar via. L'amministratore delegato della casa automobilistica poi precisa, l'Italia dell'auto è precipitata in un buco di mercato senza precedenti, abbiamo perso di colpo 40 anni, quanto al progetto Fabbrica Italia era basato su 100 cose, la metà non ci sono più. Ma quale la via d'uscita? Per Marchionne è possibile sopravvivere alla tempesta, sostenere la realtà italiana con l'aiuto di quella parte dell'azienda che va bene in America del Nord e del Sud. Il capitolo delle critiche, quindi gli attacchi ricevuti da Della Valle, tutti parlano a 100 all'ora, dice Marchionne, perché la Fiat è un bersaglio grosso, più delle scarpe di alta qualità e alto prezzo che compravo anch'io fino a qualche tempo fa. Marchionne si dice quindi disponibile ad un confronto con il governo, ma avverte ognuno faccia la sua parte. Parole quelle dei vertici Fiat, tuttavia, che non convincono il sindacato. Palazzo Chigi deve pretendere chiarezza, dicono CGL, CISL e UIL. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, e intanto proprio questa mattina sono arrivati nuovi dati del settore auto. Per quanto riguarda l'Europa, il calo è dell'8,5% ad agosto, ma in Italia la frenata è ancora maggiore. Peggio del 2011, e in fondo lo si sapeva. Il mercato europeo dell'auto ha vissuto un'estate drammatica e tra i paesi più rilevanti l'Italia è quello che ha portato a casa il risultato peggiore, meno 20%. Peggio di noi Grecia e Portogallo, ma almeno in apparenza la loro economia langue più della nostra. Un capitolo a parte lo merita la Gran Bretagna, a galla ad agosto e con alle spalle un luglio brillante, unico paese con le immatricolazioni in crescita tra gennaio e agosto. Per tutti gli altri, i primi 8 mesi dell'anno sono stati neri. Male la Fiat, con un meno 18% ad agosto e un meno 16,5% a luglio. Giù anche la quota di mercato. Dal Lingotto fanno sapere che il forte calo estivo delle vendite nasce soprattutto dal pessimo risultato italiano. E questo si sposa bene con quanto oggi, dalle colonne di Repubblica, afferma Marchionne, che la Fiat sopravvive in Italia grazie ai profitti fatti all'estero. Però, e fatte le dovute distinzioni, anche in Germania le immatricolazioni non sono andate un granché. Eppure, Volkswagen ha incrementato la quota. Per il momento la discussione tra chi sostiene che in tempi di crisi non abbia senso sfornare nuovi modelli, Marchionne, e chi invece investe oltre 50 miliardi per i prossimi 5 anni per i tedeschi, segna un altro punto a favore di Wolfsburg. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da un settore, quello dell'auto, è una grande azienda, la Fiat, ad un'altra grande azienda italiana, l'Ilva. Oggi il presidente Bruno Ferrante si è recato in procura, aveva in mano le carte con dentro i piani, gli investimenti previsti dall'azienda per risanare. Sentiamo. L'Ilva di Taranto fa il primo passo dopo la stretta dei custodi giudiziali che hanno intimato al siderurgico la fermata di una serie di impianti tra altiforni, acciaierie e batterie delle cokerie. Oggi l'azienda ha presentato il piano alla procura, si tratta di investimenti per 400 milioni di euro che, dice l'Ilva, vanno nella direzione di quanto chiede la magistratura per abbattere l'inquinamento dello stabilimento di Taranto. Il piano partirebbe dall'altoforno 1 e dalle batterie delle cokerie, previsto anche un intervento sui parchi minerali per contenere la diffusione delle polveri. Insieme al piano, l'Ilva ha anche presentato ai magistrati un'istanza con la quale chiede se può continuare a produrre in linea con quanto stabilito dal Tribunale del Riesame, che ha confermato il sequestro senza facoltà d'uso e quindi impianti in attività funzionanti, ma per consentirne la messa in sicurezza. Nel pomeriggio Ferrante presenterà il piano ai sindacati metalmeccanici, i quali ritengono il giro di vite dei custodi un modo per premere sull'azienda e spingerla a fare gli ammodernamenti. Non c'è la chiusura dello stabilimento, ma di fronte ad un passaggio del risanamento, dice il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che oggi ha parlato col procuratore capo di Taranto Franco Sebastio. Mi auguro, dice Clini, che con le iniziative del Ministero dell'Ambiente, dei giudici e dell'Ilva si costruisca un percorso concreto. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. E ora lo scandalo dei fondi PDL che ha investito la Regione Lazio. Il giorno dopo il suo intervento in Consiglio regionale, Renata Polverini, la Presidente della Regione, conferma la linea: o arriverà una svolta entro breve con un taglio dei costi alla politica, oppure arriveranno le dimissioni. E allora oggi c'è alle 14 la prima convocazione della Giunta per lavorare proprio su questo. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Continua a far discutere l'intervento di ieri di Renata Polverini. Bene, tagli alle spese, ma quelli proposti dalla governatrice non bastano, commenta l'opposizione in consiglio regionale. Dopo averli votati, la governatrice dovrebbe dimettersi, secondo il capogruppo del PD Esterino Montino. Un'operazione di facciata, commenta l'Italia dei Valori, un bluff per Verdi, Radicali e SEL. Compatto invece il PDL, che dà il via libera all'ordine del giorno della governatrice con i tagli alle spese del consiglio stesso. Si tratta di una serie di provvedimenti che prevedono entro il 2013 la riduzione delle spese dagli attuali 98 milioni di euro a 70. Intanto però gli elogi arrivano dal sindaco di Roma Alemanno. Renata Polverini dice: è riuscita a dare un colpo d'ala per portare la Regione Lazio fuori da una crisi morale. Plauda anche il capogruppo del PDL alla Camera Cicchitto, che parla di indubbi errori che devono essere superati, ma anche di fase nuova che si apre, l'unica che può salvare il Consiglio regionale. Infine, tra i leader politici interviene il segretario del PD Bersani, che avverte: Polverini valuti le conseguenze politiche di quello che sta accadendo. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, ora è il momento di tirare qualche riflessione insieme a Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Seppure la Presidente del Lazio Polverini attuerà rapidamente tutte le misure annunciate ieri con tanta enfasi, restano aperti 2 o 3 interrogativi. Primo, lasciamo da parte gli aspetti penali oggetto dell'inchiesta, ma gli sperperi del denaro pubblico erano noti a Roma ben prima dell'ultimo scandalo, perché non è stato fatto mai nulla finché da un giorno all'altro, una volta esploso lo scandalo, si scopre che tutto è marcio? Secondo, non si può parlare più di illeciti singoli e sporadici, è il sistema delle autonomie regionali che non funziona, almeno in ampie zone d'Italia. Ripensarlo dalle fondamenta dovrebbe essere una grande priorità politica, viceversa troppo spesso i partiti appaiono complici. Terzo, l'inerzia, se non peggio, di questi stessi partiti e delle istituzioni locali in cui essi sono inseriti è ormai un grande e permanente manifesto pubblicitario a favore dell'antipolitica, cioè di tutti i movimenti contestatori, e sarà opportuno che qualcuno ci rifletta. Così dunque Stefano Folli. Invece in casa di centrosinistra si continua a discutere delle primarie. Oggi in un'intervista ad un quotidiano il segretario del PD Bersani risponde a Vendola sulle primarie. Sentiamo che cosa si sono detti Elisabetta Fiorito. Sì, le primarie del centro-sinistra saranno di coalizione, probabilmente a doppio turno. Il segretario PD Pierluigi Bersani risponde così a Nicchi Vendola in un'intervista al Nuovo Giornale diretto da Luca Telese. Le primarie non sono del PD e l'affollamento non è un dramma. In quelle francesi c'erano 6 candidati, anzi è un bene per il dibattito. Spiega ancora Bersani, che precisa quello che farà in caso di sconfitta. Non sono il tipo che abbandona la nave, ma neanche che ci sta per volere degli dèi. Se perdesse invece Matteo Renzi, Bersani non esclude che il sindaco di Firenze possa essere parte della sua squadra, ma critica l'intervento di Silvio Berlusconi a favore di Renzi. È chiaro che vuole influenzare le primarie del centro-sinistra. Intanto la base dei democratici costruisce un programma in vista della competizione insieme per il PD con 4 punti: Europa e democrazia, sviluppo, sostenibilità ed energia, economia e giustizia sociale. Riguardo alla cronaca invece, da segnalare la scarcerazione dell'ex senatore PD e tesoriere della Margherita Luigi Lusi, che andrà ai domiciliari in convento in Abruzzo. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta. C'è un'altra notizia di questa mattina a cavallo tra politica e giustizia, riguarda la vicenda del presunto ricatto di Dell'Utri a Berlusconi, perché c'è una novità: è indagata anche la moglie del senatore del PDL. Adesso nella lista degli indagati c'è pure lei, la moglie di Marcello Dell'Utri, la signora Miranda Ratti, accusata di riciclaggio aggravato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Palermo su una presunta estorsione messa in atto dal marito ai danni di Silvio Berlusconi. Al centro dell'accusa il trasferimento su un conto corrente intestato alla moglie del senatore di 14 milioni di euro, parte del ricavato della vendita della villa sul lago di Como, acquistata da Berlusconi per 21 milioni di euro, almeno 10 in più rispetto al valore di mercato, villa in cui peraltro Dell'Utri continua ancora a vivere. Parte di quei soldi venne poi girata sul conto corrente di una banca di Santo Domingo. Il trasferimento del denaro porta la data dell'8 marzo scorso, giorno prima che la Cassazione si pronunciasse sulla condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa inflitta a Dell'Utri, che in quelle ore non si trovava in Italia. Il sospetto è che fosse proprio a Santo Domingo, in un paese del Centro America, dove con il denaro girato dalla moglie Miranda Ratti avrebbe potuto sopravvivere a un periodo di latitanza. Monica Ceravolo, a Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutte le foto a seno nudo di Kate Middleton, di cui si è discusso in questi giorni moltissimo, dovranno essere consegnate alla famiglia reale britannica entro 24 ore. La notizia di poco fa è questa, infatti la sentenza dei giudici francesi di Nanterre alle porte di Parigi al processo per direttissima contro il settimanale Closer, il magazine francese, che però tuttavia non sarà ritirato dalla vendita. Adesso parliamo di calcio e di Champions League, perché stasera è arrivato il momento del debutto per la prima italiana al Milan, domani tocca alla Juve. Carlo Genta. Sì, ciao Alessio, il grande ballo della Champions League comincia e per il Milan è già una partita cruciale, perché come sapete ha iniziato in maniera sbagliatissima questo campionato ed è già una partita molto importante da vincere a tutti i costi se il Milan vuole passare in questo girone D, che non sembra sulla carta impossibile. I rossoneri giocano in casa con l'Anderlecht, si annuncia pubblico scarsissimo in realtà, perché il popolo del Milan non ci crede in questa squadra. Sempre nello stesso girone Malaga-Zenit. La partitissima della serata è quella che si gioca nel gruppo D, perché sono di fronte un'altra squadra in crisi, cioè Real Madrid con Mourinho in grande difficoltà, che gioca contro un altro ex allenatore dell'Inter, cioè Roberto Mancini, e contro il Manchester City. Quindi questi sono i due appuntamenti chiave. C'è anche Ibrahimovic con Ancelotti e tutti gli ex italiani del Paris Saint-Germain, la colonia italiana del Paris Saint-Germain, che sfida la Dinamo Kiev nel gruppo A. E destini incrociati era anche il titolo del nostro programma Radio 24. Esatto. Sembra questo. Sembra questo. Allora riprendiamo con le altre notizie. Andiamo subito all'estero perché sono pesanti ancora le proteste per il film anti-Islam prodotto in America. A Kabul c'è stato un attentato con 12 vittime. Al-Qaeda nel Maghreb ha invitato i suoi seguaci ad uccidere tutti gli ambasciatori americani nell'area. Mentre per quanto riguarda il nostro paese, il ministro degli esteri Terzi rassicura sulle nostre ambasciate. Sentiamo. Una vecchia e sanguinaria conoscenza rivendica l'attentato di oggi a Kabul. Gulbuddin Ekmatyar, guida di Hezbe Islami, formazione ormai compagna di lotta di talebani e haqqani nella rivolta contro il governo centrale. L'attentato, dice il gruppo con preciso riferimento al film blasfemo, è stato fatto da una donna in burka. Un niqab, invece, sarebbe bastato ad Abu Iyad per sfuggire alla polizia dopo aver parlato da una moschea di Tunisi. Il leader salafita, ritenuto l'ispiratore delle gravi violenze dei giorni scorsi nella capitale tunisina, è tuttora ricercato in città. Violente dimostrazioni oggi anche in Indonesia, con scontri davanti all'ambasciata americana, e Pakistan, dove la Corte Suprema ha ordinato la chiusura di centinaia di siti in cui compare il film anti-Islam diffuso da YouTube. Diversamente dal passato, però, YouTube e Facebook non sono stati oscurati. Cosa che invece potrebbe accadere in Russia, dove dal 1 ottobre entreranno in vigore le nuove norme riservate ai siti web considerati pericolosi. Sul punto però Google, che è proprietaria di YouTube, è incrollabile. Il film resterà in rete, sarà bloccato solo in Libia, Afghanistan, Egitto, India e Indonesia. Intanto, per le sedi diplomatiche italiane all'estero, il ministro Giulio Terzi è ottimista. Le nostre ambasciate sono in una situazione sicura e non abbiamo motivi di temere direttamente manifestazioni o atti di violenza. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora le parole del candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Mitt Romney, in un video girato di nascosto che rischiano di creare serio imbarazzo nel suo entourage. Il 47% di americani d'accordo con Obama, ha detto Romney, sono persone che credono che il governo abbia la responsabilità di dare loro il diritto alla sanità e alla casa. Sono persone che non pagano le tasse. Il mio compito non può essere quello di preoccuparmi di loro. Parole scioccanti le ha definite Jim Messina, il coordinatore della campagna di Obama. Non sono parole eleganti, hanno ammesso effettivamente dal lato dei repubblicani, ma hanno aggiunto, esprimono concetti già detti in passato. E ora veniamo a Milano, a parlare nuovamente di Milano, ma per tutt'altra vicenda rispetto alla notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del giornale radio, cioè la gambizzazione di un imprenditore milanese, e cercheremo di capire quali sono i contorni di questa notizia, la matrice di questo attentato. Oggi invece a Milano si è celebrata un'altra cosa, il registro delle unioni civili istituito a fine luglio da una delibera della giunta Pisapia. 18 le coppie che hanno celebrato l'iscrizione, 4 delle quali omosessuali, in questa prima giornata che ha registrato il tutto esaurito per gli appuntamenti previsti. Primo a firmare Paolo Utter, ex consigliere comunale pioniere già 20 anni fa dei matrimoni gay simbolici celebrati in Piazza Scala. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Mi sento molto soddisfatto e stupito della grande accoglienza che c'è, della grande attenzione. Eravamo circondati da fotografi come se veramente stessimo firmando un trattato internazionale. Contemporaneamente ho ben presente che è un pochino un'autosuggestione. Sarei emozionato se finalmente, dopo 20 anni di relazione con Paolo, fossimo arrivati a un matrimonio o a qualcosa di almeno paragonabile al matrimonio e non a una semplice firma promozionale su un registro comunale di buona volontà. Cosa cambia per lei da oggi? Questa la passo al mio partner Paolo Oddi, questa domanda. Ha un significato affettivo, naturalmente, è inevitabile che sia così, quindi c'è emozione, in quanto viene riconosciuta a livello istituzionale l'esistenza comunque di un vincolo affettivo, appunto, e di una unione, anche se viene riconosciuto per ora a livello comunale con le conseguenze di tipo amministrativo, quindi non di tipo civile, che noi tutti chiediamo, ma comunque ha una sua importanza. Penso anche a tante persone in questo momento che si sono viste discriminare magari negli ospedali, e succede spesso in altre situazioni, adesso magari se unite civilmente con questo attestato potranno rivendicare qualche piccolo diritto in più, ma ci vuole naturalmente la legge. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio e Carmelo La Rocella in regia. Vi augurano buona giornata. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola e benvenuti alla seconda edizione del GR Spettacoli. Fazio e Saviano dal 1 ottobre su Rai 3. Lo ha annunciato poco fa al Pre-Italia di Torino il direttore di rete Antonio Di Bella. Saranno in onda tutti il lunedì. Simona Ventura non smentisce ma conferma indirettamente la notizia secondo cui sarà lei a presentare la trasmissione sportiva della domenica pomeriggio su Cielo. Ne riparleremo in una prossima conferenza stampa, ha dichiarato Simona, che ieri ha presentato le novità del nuovo X Factor su Sky. Cioè, il calcio è sempre stata la linea rossa della mia vita, però la musica altrettanto. Direi che ormai, cioè, questo è un po' il mio mestiere. Diciamo che sono una... Voglio essere nel mio piccolo un piccolo impresario per questi talenti. Impresario che è una figura che nella musica italiana non c'è più. Aiutava il percorso di ognuno dei cantanti, no? Parlo della, per esempio, Mara Maionchi, è stata un grande impresario. Per essere nonna, insomma, non so se ha ancora voglia. Non è facile poi nel mondo di oggi, però questo è un piccolo ruolo che vorrei ritagliare qui a X Factor. Sono più di 3 miliardi i brani scaricati illegalmente in tutto il mondo nei primi 6 mesi del 2012 attraverso il sistema Torrent. Nello studio dell'anglo-americana Music Metric emerge come l'Italia sia al terzo posto, dietro al Regno Unito e Stati Uniti, al settimo nei download pro capite. Ti sento scorrere tra le mie vertebre, non so distinguerti dal veleno che ho sulla pelle. Esce oggi il nuovo album di Malika Yan, Ricreazione, il primo lavoro firmato anche da produttrice artistica. Diciamo che non ero ancora, è un po' come quando sei adolescente, non sai bene, non sapevo ancora qual era la mia vera identità, diciamo, perlomeno non so se... incontrando un'altra persona con una presenza, una storia artistica più forte della mia, sarei stata mai in grado... Di non farmi plasmare eccessivamente, no? E quindi per evitare questa cosa ho deciso di correre il rischio, quindi mi sono buttata in questa tauromachia musicale, ma ho chiamato la squadra, che è la mia band soprattutto, e un gruppo di autori, per fortuna, molti di loro anche amici, e insomma mi sono messa a dirigere questo carnevale. Corro ancora, sai perché? E oggi esce anche il nuovo album di inediti dei Nomadi con il nuovo cantante Cristiano Turato. Terzo tempo, Beppe Carletti. È una nuova fase, un terzo tempo, può essere il terzo tempo della vita, può essere... Io lo intendo come il terzo tempo bello, no? Quello dell'amicizia, quello della... insomma, di tutte le cose belle, non le repliche che si abbracciano tutti nel finale. Io vorrei che fosse una cosa così, insomma, intesa in questo modo qua. Un terzo tempo dell'amicizia, dell'amore, della vita. Poi chiaramente uno può anche dire il terzo tempo dei Nomadi, perché è il terzo cantante, quindi uno può intenderlo anche così. Diciamo che ognuno può fare proprio quello che pensa che sia più giusto, che trasmettiamo con queste canzoni. E per il GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.